Scrivi: così parla colui che tiene nella sua destra le sette stelle e cammina in mezzo ai sette candelabri d'oro. Mi è nota la tua condotta, la tua fatica, la tua costanza. So che non puoi soffrire i malvagi. Infatti hai messo alla prova quelli che si spacciavano per apostoli e non lo sono, e li hai trovati bugiardi. Hai costanza, avendo sofferto per il mio nome, senza venir meno. Ma devo rimproverarti che non hai più l'amore di un tempo. Considera da quale altezza sei caduto e ritorna alla condotta di prima. Altrimenti io verrò a te e, se non ti sarai convertito, rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto. Tuttavia hai questo di buono, che detesti la condotta dei Nicolaiti, che anch'io detesto. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Al vittorioso farò mangiare dall'albero della vita, che è nel paradiso di Dio. All'angelo della chiesa di Smirne scrivi: così parla il primo e l'ultimo, colui che giacque morto e poi risuscitò. Conosco la tua tribolazione e la tua indigenza, però sei ricco, e la bestemmia di certuni fra quelli che si professano giudei e non lo sono, sono invece una sinagoga di Satana. Non aver paura delle sofferenze che ti attendono. Ecco, il diavolo sta per gettare in carcere alcuni di voi affinché siate messi alla prova. Avrete una tribolazione di 10 giorni. Rimani fedele sino alla morte e ti darò la corona della vita. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Il vittorioso non sarà colpito dalla morte seconda. All'angelo della chiesa di Pergamo scrivi: così parla colui che tiene la spada affilata a doppio taglio. So dove abiti, cioè dove Satana ha il suo trono, eppure tieni saldo il mio nome. Infatti non rinnegasti la tua fede in me, neppure al tempo di Antipa, il mio testimone fedele, che fu messo a morte fra voi, là dove Satana ha la sua dimora. Ma debbo rimproverarti per alcune cose, che cioè permetti che taluni costì professino la dottrina di Balaam, quello che suggeriva a Balak di porre un inciampo davanti ai figli di Israele, inducendoli a mangiare carne immolata agli idoli e a fornicare. Così anche tu hai chi professa alla stessa maniera la dottrina dei Nicolaiti. Ravvediti perciò, altrimenti non tarderò a venire a te e combattere contro di loro con la spada della mia bocca. Chi ha orecchi, ascolti quello che dice lo Spirito alle chiese. Al vittorioso farò mangiare la manna nascosta e gli darò un sassolino bianco sul quale c'è scritto un nome nuovo che nessuno conosce se non chi lo riceve. All'angelo della chiesa di Tiatira scrivi: così parla il Figlio di Dio, i cui occhi sono come fiamma ardente, i cui piedi sono simili al bronzo splendente. Mi è nota la tua condotta, l'amore, la fede, il servizio, la costanza e le tue opere più recenti, che sono più numerose delle prime. Ma devo rimproverarti che permetti alla donna Jezabele, che si vanta d'essere profetessa, di istigare i miei servi con i suoi insegnamenti a prostituirsi mangiando carne immolata agli idoli. Le ho dato tempo per ravvedersi, ma ella si rifiuta di convertirsi dalla sua prostituzione. Ecco, getterò lei su un letto di dolore e quelli che con essa fanno adulterio in una terribile prova, se non cesseranno di seguire la sua condotta. Colpirò con la morte i suoi figli, e così tutte le chiese riconosceranno che io sono colui che scruta i reni e i cuori, e che a ciascuno di voi retribuirà secondo le vostre opere. Ma a tutti gli altri che fra voi di Tiatira non seguono la sua dottrina, che non conoscono la profondità di Satana, come essi dicono, dichiaro di non voler imporre su di voi altro peso, ma quello che avete tenetelo saldamente fino a che io venga. Al vittorioso, quello che osserverà sino alla fine i miei precetti, darò potestà sulle nazioni e le governerà con verga di ferro. Come i vasi d'argilla le frantumerà, proprio come io ho ricevuto dal Padre mio. Gli darò inoltre la stella del mattino. Chi ha orecchi, ascolti quello che lo Spirito dice alle chiese. All'angelo della chiesa di Sardi scrivi: così parla colui che possiede i sette spiriti di Dio e le sette stelle. Mi è nota la tua condotta. Porti il nome di vivente ed invece sei morto. Sii vigilante e dà vigore a quanto resta, che altrimenti finirebbe per morire. Infatti non trovo perfetta la tua condotta al cospetto del mio Dio. Tieni dunque in mente come hai ricevuto e udito, così conserva e ravvediti. Se tu però non sarai vigilante, verrò come un ladro, cioè senza che tu sappia l'ora della mia venuta. Tuttavia hai alcune persone in Sardi che non hanno macchiato le loro vesti, perciò cammineranno con me in vesti bianche. Sì, ne sono degne. Il vittorioso così vestirà, con vesti bianche. Io non ne cancellerò il nome dal libro della vita, anzi proclamerò il suo nome al cospetto del Padre mio e dei suoi angeli. Chi ha orecchi, ascolti quello che lo Spirito dice alle chiese. All'angelo della chiesa di Filadelfia scrivi: così parla il Santo, il Verace, colui che possiede la chiave di Davide, colui che apre e nessuno chiude, che chiude e nessuno apre. Mi è nota la tua condotta. Ecco, metto davanti a te una porta aperta che nessuno può chiudere. Per quanto sia poca la forza che hai, pure hai conservato la mia parola e non hai rinnegato il mio nome. Ecco, ti dono alcuni della sinagoga di Satana, di quelli che dicono di essere giudei e non lo sono, ma mentiscono. Ecco, farò che essi vengano e si prostrino ai tuoi piedi e riconosceranno che io ti amo. Poiché hai conservato la mia parola di costanza, anch'io ti preserverò dall'ora della prova che sta per abbattersi su tutto il mondo abitato e affliggerà gli abitanti della terra. Vengo presto. Tieni stretto ciò che hai, affinché nessuno prenda la tua corona. Il vittorioso lo porrò come colonna nel tempio del mio Dio, e giammai ne uscirà. Vi scriverò il nome del mio Dio e il nome della città del mio Dio, la nuova Gerusalemme che discende dal cielo da presso il mio Dio, e inoltre il mio nome nuovo. Chi ha orecchi, ascolti quello che lo Spirito dice alle chiese. All'angelo della chiesa di Laodicea scrivi: così parla l'Amen, il testimone fedele e verace, il principio della creazione di Dio. Mi è nota la tua condotta, che cioè non sei né freddo né caldo. O se tu fossi freddo o caldo. Così, poiché tu sei tiepido, cioè né caldo né freddo, io sono sul punto di vomitarti dalla mia bocca. Tu dici: sono ricco, sono diventato ricco, non ho bisogno di nulla. E non ti accorgi che proprio tu sei il più infelice, miserabile, povero, cieco e nudo. Ti esorto ad acquistare da me oro raffinato nel fuoco, con cui arricchirti davvero, di comprarti vesti bianche con cui coprirti e nascondere la tua nudità, e collirio con cui ungerti gli occhi affinché possa vederci. Quelli che amo li rimprovero e li castigo. Affrettati perciò a convertirti. Ecco, io sto alla porta e busso. Se uno, udendo la mia voce, mi aprirà la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui, ed egli con me. Il vittorioso lo farò sedere con me sul mio trono, proprio come io ho vinto, e perciò mi sono assiso insieme al Padre mio

udii il clamore di una moltitudine di angeli che circondavano il trono con i viventi e i signori, in numero di miriadi e di migliaia, i quali dicevano a gran voce: «Degno è l'agnello immolato di ricevere potenza e ricchezza, sapienza e forza, onore, gloria e lode». Ed ogni creatura, in cielo, in terra, sottoterra e nel mare, e tutte le cose in essi contenute, udì esclamare: «A colui che siede sul trono e all'agnello, lode ed onore, gloria ed impero, nei secoli dei secoli». I quattro viventi dissero: «Amen». E i 24 signori si prostrarono in adorazione. Quando l'agnello aprì il primo dei sette sigilli, udì in visione il primo dei quattro viventi dire come con voce di tuono: «Vieni!» E vidi apparire un cavallo bianco, su cui sedeva un cavaliere con un arco. Fu dato a lui una corona. Venne dunque fuori da vittorioso, per vincere ancora. All'apertura del secondo sigillo udì il secondo vivente esclamare: «Vieni!» Allora uscì un altro cavallo, rosso vivo. A colui che lo montava era stata data la potestà di togliere via dalla terra la pace, in modo che gli uomini si sgozzassero l'un l'altro. Per questo gli fu data una grande spada. All'apertura del terzo sigillo udì il terzo vivente dire: «Vieni!» Apparve allora un cavallo nero. Colui che lo montava aveva in mano una bilancia. Udii fra i quattro viventi come una voce dire: «Una misura di frumento per un denaro e tre misure di orzo per un denaro, ma all'olio e al vino non recar danno». All'apertura del quarto sigillo udii il quarto vivente dire: «Vieni!» Ed ecco, apparve un cavallo verdastro. Colui che lo montava aveva nome Morte, e l'Ade lo seguiva. Fu data loro potestà di portare lo sterminio sulla quarta parte della terra, con la spada, la fame, la peste e con le fiere della terra. All'apertura del quinto sigillo, sotto l'altare, apparvero le anime di coloro che sono stati uccisi a causa della parola di Dio e della testimonianza da loro data. Essi si misero a gridare a gran voce, dicendo: «Fino a quando, o Signore, tu che sei santo e verace, non farai giustizia, vendicando il nostro sangue sugli abitanti della terra?» Ma a ciascuno di essi fu data una veste bianca, e fu detto di pazientare ancora un poco, finché non si completi il numero dei loro compagni e fratelli che dovranno essere uccisi come loro. All'apertura del sesto sigillo apparve ai miei occhi questa visione. Si udì un gran terremoto. Il sole s'offuscò da apparire nero come un sacco di crine. La luna tutta prese il colore del sangue. Le stelle dal cielo precipitarono sulla terra come i frutti acerbi di un fico che è scosso da un vento gagliardo. Il cielo si accartocciò come un rotolo che si ravvolge. Monti e isole tutte scomparvero dai loro posti. Allora i re della terra, i maggiorenti, i capitani, i ricchi e i potenti, tutti, schiavi e liberi, si rifugiarono nelle caverne e fra le rupi delle montagne, e dicevano alle montagne e alle rupi: «Cadete sopra di noi e nascondeteci dalla presenza di colui che siede sul trono e dall'ira dell'agnello, poiché è giunto il gran giorno della loro ira. E chi potrà resistere?» Dopo ciò vidi quattro angeli che stavano ritti sui quattro angoli della terra a trattenere i quattro venti della terra, affinché non soffiasse vento sulla terra, né sul mare, né su albero alcuno. Poi vidi un altro angelo salire dall'oriente con il sigillo del Dio vivente. Questi gridò a gran voce ai quattro angeli incaricati di recar danno alla terra e al mare:

fu colpita la terza parte del sole, la terza parte della luna e la terza parte delle stelle, in modo che s'offuscò la terza parte di loro, e così il giorno non brillava per una sua terza parte, e lo stesso la notte. Udii poi in visione un'aquila che volava allo zenith dire a gran voce: guai, guai, guai agli abitanti della terra per i rimanenti squilli di tromba dei tre angeli che s'appressano a suonare. Il quinto angelo suonò la sua tromba. Vidi un astro caduto dal cielo sulla terra. Gli fu consegnata la chiave della voragine dell'abisso. Egli aprì la voragine dell'abisso e da essa salì un fumo come il fumo di una grande fornace. Il sole e l'aria si offuscarono per il fumo della voragine. Dal fumo vennero sulla terra delle cavallette. Fu dato loro un potere simile a quello degli scorpioni terrestri. Ma fu loro ingiunto di non recar danno né a erba della terra, né a pianta, né ad albero alcuno, ma solo agli uomini che non avessero sulla fronte il sigillo di Dio. Però fu loro concesso di non farli morire, ma di tormentarli per 5 mesi con un tormento simile a quello dello scorpione quando punge un uomo. In quei giorni gli uomini cercheranno la morte e non la troveranno. Brameranno morire, ma la morte fuggirà da loro. Ora, al vederle, le cavallette somigliavano a cavalli pronti all'assalto. Sulle loro teste portavano una specie di corona all'apparenza d'oro. Le loro facce erano come facce di uomini. I loro capelli sembravano capelli di donne. I loro denti somigliavano a quelli di leoni. Avevano corazze come corazze di ferro, e il frastuono delle loro ali era come il fragore di carri con molti cavalli lanciati all'assalto. Avevano code simili a quelle degli scorpioni con pungiglioni. Proprio nelle loro code risiedeva il loro potere di tormentare gli uomini per 5 mesi. Avevano come re l'angelo dell'abisso, il cui nome in ebraico si chiama distruzione e in greco sterminatore. Il primo guai è passato. Ma ecco, vengono subito gli altri due. Il sesto angelo suonò la sua tromba. Dai 4 angoli dell'altare d'oro che sta davanti a Dio, udì uscire una voce, la quale al sesto angelo che teneva la tromba diceva: sciogli i 4 angeli che sono legati sul grande fiume Eufrate. Allora furono sciolti i 4 angeli che erano in attesa dell'ora, giorno, mese ed anno, pronti a sterminare la terza parte degli uomini. Il numero delle truppe di cavalleria era di 200 milioni. Udii il loro numero. Così apparvero nella visione i cavalli e i loro cavalieri. Indossavano corazze dall'aspetto di fuoco, giacinto e solfo, mentre le teste dei cavalli somigliavano a quelle dei leoni. Dalle loro bocche uscivano fuoco, fumo e zolfo. Da questi 3 flagelli, cioè dal fuoco, fumo e zolfo, che uscivano dalle loro bocche, fu sterminata la terza parte degli uomini. Infatti, il potere dei cavalli sta nelle loro bocche e nelle code. Infatti, le loro code, alla maniera dei serpenti, sono munite di teste di cui si servono per nuocere. Gli uomini restanti, sfuggiti allo sterminio di tali flagelli, non rinunziarono ad adorare le opere delle loro mani, cioè demoni e idoli d'oro, d'argento, di bronzo, di pietra, di legno, incapaci di vedere, udire e camminare, e non si ravvidero dal commettere omicidi, magie, dissolutezze e furti. Vidi poi un altro angelo, possente, discendere dal cielo. Era avvolto in una nube e l'arcobaleno cingeva il suo capo. La sua faccia brillava come il sole, le sue gambe sembravano 2 colonne di fuoco. Aveva in mano un libriccino aperto. Posto il piede destro sul mare e il sinistro sulla terra, emise un grido fortissimo, simile al ruggito del leone. Al suo grido risposero con le loro voci i 7 tuoni. Quando questi ebbero parlato, mi accingevo a scrivere. ma si fece udire dal cielo una voce che mi disse: suggella quanto hanno detto i sette tuoni e non metterlo in iscritto. Quindi l'angelo che prima avevo visto posarsi sul mare e sulla terra levò la mano destra verso il cielo e giurò nel nome di colui che vive nei secoli dei secoli, colui che ha creato il cielo e ciò che esso contiene, la terra e quanto essa contiene, il mare e ciò che esso contiene. Non vi sarà più alcun indugio, ma quando il settimo angelo farà udire il suono della sua tromba, allora sarà consumato il mistero di Dio, secondo quanto ha annunciato ai profeti, suoi servi. Poi la stessa voce che avevo udita dal cielo di nuovo mi parlò e disse: va, prendi il libricino aperto dalla mano dell'angelo che sta posato sul mare e sulla terra. Io allora m'appressai all'angelo, pregandolo di darmi il libricino. Egli mi disse: prendilo e inghiottilo. Esso sarà amaro al tuo stomaco, nella bocca sarà dolce come il miele. Presi il libricino dalla mano dell'angelo e lo inghiottii. Nella bocca era dolce come il miele, ma dopo che l'ebbi inghiottito, le mie viscere si riempirono d'amarezza. Quindi mi fu detto: è necessario che tu faccia ancora profezie su popoli, nazioni e re senza numero. Mi fu data una canna simile a verga, con questo comando: orsù, prendi le misure del tempio di Dio e dell'altare, con quanti ivi fanno adorazione. Ma all'atrio esterno del tempio lascialo fuori, non lo misurare. Infatti è stato concesso ai gentili di calpestare la città santa per 42 mesi. Ma io invierò i due testimoni ad esercitare il loro ministero profetico, vestiti di sacco, per 1260 giorni. Sono essi i due ulivi e i due candelabri che stanno davanti al Signore della terra. Se per caso qualcuno vorrà far loro del male, uscirà dalla loro bocca un fuoco che divorerà i loro nemici. Perciò se qualcuno volesse far loro del male, in quella maniera dovrà morire. Essi avranno potere di chiudere il cielo, in modo che non scenda la pioggia per tutto il tempo del loro ministero profetico. Inoltre avranno facoltà di cambiare l'acqua in sangue e di colpire la terra con ogni specie di flagelli, ogni volta che lo vorranno. Una volta terminato il tempo della loro testimonianza, la bestia che sale dall'abisso combatterà contro di loro, li vincerà e li ucciderà. Quindi i loro cadaveri rimarranno esposti nella piazza della grande città che si chiama allegoricamente Sodoma o Egitto, proprio dove il loro Signore fu crocifisso. Contempleranno i loro cadaveri per 3 giorni e mezzo uomini di ogni razza, popolo, lingua e nazione, impedendo che essi siano messi nella tomba. Gli abitanti della terra faranno festa su di loro, manifesteranno la loro gioia scambiandosi doni, perché questi due profeti hanno tormentato gli abitanti della terra. Ma dopo 3 giorni e mezzo, un soffio vitale, proveniente da Dio, entrò in loro e si rizzarono sui loro piedi, mentre tutti quelli che li guardavano furono presi da grande spavento. Udirono quindi una gran voce dal cielo che disse loro: salite quassù. Essi salirono nel cielo su una nuvola e i loro nemici rimasero a guardarli. In quel momento avvenne un gran terremoto, per cui crollò la decima parte della città e morirono nel terremoto 7.000 persone. I superstiti, presi dallo spavento, diedero gloria al Dio del cielo. Il secondo guai è passato, ma ecco, il terzo guai viene presto. Finalmente il settimo angelo suonò la sua tromba. Si levarono nel cielo grandi clamori. È passata la regalità del mondo al nostro Signore e al suo Cristo, che regnerà nei secoli dei secoli. Allora i 24 signori che sedevano davanti a Dio sui loro seggi si prostrarono davanti a Dio in atto di adorazione, dicendo: rendiamo grazie a te, Signore Dio onnipotente, che sei e che eri, poiché hai posto mano alla tua infinita potenza

e chi può combattere con essa? Alla bestia fu data una bocca che proferiva parole orgogliose e blasfeme, e le fu concesso di operare per lo spazio di 42 mesi. Così aprì la sua bocca blasfema contro Dio, lanciando bestemmie contro il nome e la dimora di Lui, contro tutti gli abitanti del cielo. Le fu dato potere di far guerra ai santi e vincerli, e le fu data potestà su ogni tribù, popolo, lingua e nazione. L'adoreranno tutti gli abitanti della terra, il cui nome fin dall'origine del mondo non sta scritto nel libro della vita dell'agnello immolato. Chi ha orecchi, ascolti. Se uno è destinato alla prigione, vada in prigione. Se uno con la spada uccide, con la spada deve essere ucciso. In ciò sta la pazienza e la fede dei santi. Poi vidi un'altra bestia salire dalla terra. Aveva due corna come un agnello, ma parlava come un dragone. Esercitava tutta l'autorità della prima bestia per conto di essa. S'adoperava infatti che la terra e tutti i suoi abitanti si prostrassero davanti alla prima bestia, la cui ferita mortale era stata guarita. Faceva prodigi strabilianti, al punto da far discendere dal cielo sulla terra il fuoco, e ciò sotto gli occhi degli uomini. Così traeva in inganno gli abitanti della terra, con i portenti che aveva il potere di fare a servizio della bestia. Spingeva infatti gli abitanti della terra ad erigere un'immagine alla bestia che aveva ricevuto la ferita della spada e poi aveva ripreso vita. Quindi fu dato ad essa di infondere lo spirito al simulacro della bestia, in modo che questa potesse parlare. Quanti non avessero voluto adorare l'immagine della bestia, ordinava che fossero uccisi. S'adoperava inoltre che a tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e schiavi, fosse impresso sulla loro mano destra o sulla fronte un marchio, in modo che nessuno potesse comprare o vendere all'infuori di coloro che portavano il marchio, cioè il nome della bestia, o il numero del suo nome. Qui sta la sapienza. Chi ha mente, computi il numero della bestia. È un numero d'uomo. Il suo numero è 666. Poi guardai, ed ecco, l'agnello stava sul monte Sion, circondato da 144.000, che portavano scritto sulla loro fronte il nome di lui e il nome del Padre suo. Udì una voce dal cielo, simile al fragore di acque copiose e al rimbombo di un tuono possente. Mi pareva di udire come il suono di arpisti che arpeggiavano sulle loro arpe. Cantavano davanti al trono e ai quattro viventi e ai signori come un cantico nuovo che nessuno poteva comprendere se non i 144.000, quelli cioè che sono stati riscattati dalla terra. Questi sono coloro che non si sono contaminati con donne. Sono infatti vergini. Costoro sono quelli che seguono l'agnello dovunque egli va. Essi sono stati riscattati dagli uomini, quali primizia per Dio e per l'agnello. Nella loro bocca non s'è trovata menzogna. Sono integri. Poi vidi un altro angelo che, volando nel mezzo del cielo, recava un Vangelo eterno per annunciarlo agli abitanti della terra, ad ogni nazione, tribù, lingua e popolo. Diceva a gran voce: temete Dio e dategli gloria, poiché giunta è l'ora del suo giudizio. Adorate colui che ha fatto il cielo e la terra, il mare e le sorgenti d'acqua. Quindi un angelo seguì dicendo: è caduta Babilonia la grande, quella che con il vino dell'ardore della sua prostituzione ha abbeverato tutte le genti. Ancora un altro angelo, un terzo, seguì a loro, dicendo a gran voce:

Una piaga maligna e perniciosa si produsse sugli uomini che portavano il marchio della bestia e ne adoravano l'immagine. Il secondo versò la sua coppa sul mare. Esso diventò sangue come di un morto, per cui tutti gli esseri viventi che si trovavano nel mare morirono. Il terzo versò la sua coppa sui fiumi e sulle sorgenti di acqua. Diventarono sangue. Allora udii l'angelo delle acque che diceva: «Giusto sei, tu che sei e che eri, o santo, se hai inflitto tali castighi. Poiché versarono il sangue di santi e profeti, sangue anche tu desti loro da bere. Ne sono ben meritevoli». Udii quindi una voce dall'altare che diceva: «Sì, o Signore, Dio onnipotente, giusti e veraci sono i tuoi giudizi». Il quarto versò la sua coppa sul sole affinché avvampasse gli uomini col fuoco. E questi, tormentati da un calore insopportabile, si misero a lanciare bestemmie contro il nome di Dio dal quale provenivano questi flagelli, ma non si piegarono a rendergli gloria. Il quinto versò la sua coppa sul trono della bestia. Il suo regno s'offuscò. Gli uomini si mordevano la lingua dal dolore, bestemmiavano contro il Dio del cielo a causa dei dolori provocati dalle loro ulcere, ma non si ravvidero dalla loro condotta. Il sesto versò la sua coppa sul grande fiume Eufrate. La sua acqua s'essiccò in modo da lasciar via libera ai re dell'Oriente. Quindi vidi uscire dalla bocca del dragone, della bestia e del falso profeta tre spiriti impuri che somigliavano a rane. Sono infatti spiriti demoniaci che, muniti di poteri taumaturgici, hanno il compito di chiamare a raccolta i re di tutta la terra per la guerra del gran giorno di Dio, l'Onnipotente. Ecco, io verrò come un ladro. Beato colui che è vigilante e conserva le sue vesti. Così non camminerà ignudo e non lascerà scorgere la sua vergogna. E radunarono i re nel luogo chiamato in ebraico Armageddon. Infine, il settimo versò la sua coppa nell'aria. Dal tempio, dalla parte del trono, uscì una voce che disse: «È compiuto». Vi furono allora lampi, voci e tuoni, e un terremoto talmente grande che mai è avvenuto un terremoto così veemente da quando l'umanità è apparsa sulla terra, per cui la grande città si scisse in tre parti e le città delle nazioni crollarono. E fu fatta menzione davanti a Dio della grande Babilonia, affinché le fosse dato da bere il calice del vino della sua ira furente. Tutte le isole fuggirono e i monti scomparvero, e dal cielo cadde sugli uomini una grandine così grossa da apparire una pioggia di talenti. E gli uomini bestemmiarono Dio a causa del flagello della grandine, perché oltremodo grande era tale flagello. Poi uno dei sette angeli dalle sette coppe s'avvicinò a me e mi disse: «Orsù, voglio mostrarti il castigo della grande meretrice che sta assisa su acque copiose. Con essa i re della terra hanno fornicato, e col vino della sua prostituzione si sono inebriati gli abitanti della terra». Mi trasportò quindi in spirito nel deserto, dove vidi una donna seduta sopra una bestia scarlatta, piena di numi blasfemi, con sette teste e dieci corna. La donna era vestita di porpora e di scarlatto, tutta adorna di gioielli d'oro, pietre preziose e perle. Teneva in mano una coppa d'oro, ricolma di abominazioni e impurità della sua prostituzione. Sulla fronte portava scritto un nome simbolico: la grande Babilonia, la madre delle meretrici e delle abominazioni della terra. E potei scorgere come la donna fosse ebra del sangue dei santi e del sangue dei martiri di Gesù. Al vederla io fui preso da grande meraviglia. Ma l'angelo mi disse: «Perché ti meravigli? Ora ti spiego il mistero della donna e della bestia dalle sette teste e dieci corna sulla quale ella siede. La bestia che hai vista era e non è più. Sta per risalire dall'abisso per poi andarsene in perdizione. Al vedere la bestia che era e non è più e che riapparirà,

I mercanti dunque che essa aveva arricchito in tale commercio da lontano, perché presi dal terrore del suo supplizio, piangeranno e faranno lamento dicendo: guai, guai, o città grande, tu che vestivi di bisso, di porpora e di scarlatto, tu che tornavi di gioielli d'oro, di pietre preziose e perle, ecco, in un sol momento è andata in fumo tanta ricchezza. E ogni nocchiero e tutti quelli che viaggiano in mare, i marinai e quanti trafficano nel mare, lontano si fermano e al vedere il fumo del suo incendio gridano: chi uguagliava la grande città? E gettandosi polvere sulle loro teste, gridano piangendo e facendo lamenti: guai, guai, o città grande! Della sua opulenza si arricchirono quanti in mare possedevano navi. Sì, in un sol momento s'è compiuta la sua rovina. Rallegrati per essa, o cielo, e voi, santi, apostoli e profeti, perché Dio ha preso la vostra vendetta su lei. Poi un angelo possente sollevò una pietra grande come una mola e la gettò nel mare dicendo: con tale impeto sarà sommersa Babilonia, la grande città, e più non apparirà. Armonia di arpisti e musici, di flautisti e trombettieri, in te più non sudrà. Artista in ogni arte esperto, in te più non vi sarà. Cigolio di mola, in te più non sudrà. Luce di lampada, in te più non brillerà. Voce di sposo e sposa, in te più non sudrà. Sì, erano i tuoi mercanti i grandi della terra. Sì, dalle tue malie tutte le genti furono sedotte. In essa si è trovato il sangue di profeti e di santi e di tutti quelli che sulla terra sono stati immolati. Dopo questo udii in cielo come il clamore di una folla sterminata che diceva: alleluia, salvezza, gloria e forza sono del nostro Dio. Sì, veraci e giusti sono i suoi giudizi. Sì, egli ha castigato la grande meretrice che corrompeva la terra con la sua prostituzione, vendicando su di lei il sangue dei suoi servi. E per la seconda volta dissero: alleluia, sale il fumo di lei nei secoli dei secoli. Allora i 24 signori, insieme ai 4 viventi, si prostrarono per adorare Dio che sedeva sul trono, dicendo: amen, alleluia. Uscì quindi dal trono una voce che disse: innalzate lodi al nostro Dio, voi tutti suoi servi, e voi che lo temete, piccoli e grandi. Poi udii come il vocio di una folla immensa, simile al fragore di acque copiose, come il rimbombo di tuoni possenti. Dicevano: alleluia, sì, ha inaugurato il suo regno il Signore Dio nostro, l'Onnipotente. Rallegriamoci ed esultiamo, rendiamo a Lui gloria, che giunte son le nozze dell'agnello e pronta è la sua sposa. Ecco, le hanno dato una veste di bisso puro, splendente. Il bisso rappresenta le opere buone dei santi. Poi l'angelo mi disse: scrivi, beati coloro che sono stati invitati alla cena nuziale dell'agnello. E soggiunse: queste parole sono veraci, provengono da Dio. Allora caddi ai suoi piedi in segno di adorazione. Ma egli mi disse: guardati dal farlo. Io sono servo come te e come i tuoi fratelli che posseggono la testimonianza di Gesù. È Dio che devi adorare. Ora la testimonianza di Gesù è lo spirito profetico. Vidi poi aprirsi il cielo ed ecco un cavallo bianco. Colui che lo cavalcava è chiamato fedele e verace. Con giustizia giudica e combatte. I suoi occhi sono come fiamma ardente, sul capo numerosi diademi e porta scritto un nome che nessuno all'infuori di lui comprende. Il mantello che indossa è intriso di sangue. Il suo nome è il Verbo di Dio. Lo seguono gli eserciti celesti, montando anch'essi cavalli bianchi, vestiti di puro candido bisso.

Infatti il cielo e la terra di prima erano scomparsi. Neppure il mare c'era più. E vidi la città santa, la nuova Gerusalemme, discesa dal cielo da presso Dio, preparata come una sposa adorna per il suo sposo. E udii dal trono una voce possente che disse: «Ecco la dimora di Dio con gli uomini, e dimorerà con loro, ed essi saranno suo popolo, ed egli sarà il Dio con loro, e asciugherà ogni lacrima dai loro occhi. Non vi sarà più morte, né lutto e grida e dolore. Sì, le cose di prima son passate». E colui che sedeva sul trono disse: «Ecco, faccio nuove tutte le cose». E aggiunse: «Scrivi, fedeli e veraci sono queste parole». E ancora: «È compiuto. Io sono l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine. A colui che ha sete darò da bere dalla sorgente dell'acqua viva, gratuitamente. Solo chi sarà vittorioso avrà in retaggio queste cose. Io sarò per lui Dio, ed egli sarà per me figlio. Ma quanto ai codardi, infedeli, depravati e omicidi, impudichi, benefici e idolatri, a quanti son pieni d'ogni sorta di menzogna, la loro sorte è nello stagno, quello che brucia con fuoco e con solfo. È questa la morte seconda». Poi uno dei sette angeli dalle sette coppe piene dei sette estremi flagelli si avvicinò a me e mi disse: «Orsù, voglio mostrarti la fidanzata, la sposa dell'agnello». E mi trasportò su un monte altissimo, dove mi mostrò la città santa, Gerusalemme, discesa dal cielo da presso Dio, circonfusa della gloria di Dio. Il suo splendore è simile a quello di pietre preziosissime, come di diaspro cristallino. Ha un muro di cinta grande ed alto, con 12 porte sormontate da 12 angeli e recanti i nomi scritti delle 12 tribù dei figli di Israele. A oriente 3 porte, a settentrione 3 porte, a mezzogiorno 3 porte, ad occidente 3 porte. Le mura della città poggiano su 12 basamenti, su cui sono scritti i 12 nomi dei 12 apostoli dell'agnello. Ora, colui che parlava con me aveva una canna graduata d'oro per misurare la città, le porte e le mura. La città è quadrangolare, la sua lunghezza è quanto la larghezza. Misurò con la canna la città, 12.000 stadi. La lunghezza, la larghezza e l'altezza sono uguali. Misurò le mura, 144 cubiti, misura d'uomo, cioè di angelo. Le mura sono costruite di diaspro e la città è d'oro finissimo, simile a vetro limpido. I basamenti delle mura della città sono ornati di ogni specie di pietre preziose. Il primo basamento, diaspro, il secondo, zaffiro, il terzo, calcedonio, il quarto, smeraldo, il quinto, sardonico, il sesto, corniola, il settimo, crisolito, l'ottavo, berillo, il nono, topazio, il decimo, crisopazio, l'undecimo, giacinto, il dodicesimo, ametista. Le 12 porte sono 12 perle, per ciascuna delle porte v'era una perla. Infine, la piazza della città è d'oro finissimo, come vetro trasparente. Ma tempio non vidi in essa. Il Signore Dio, l'Onnipotente, insieme all'agnello, è il suo tempio. E la città non ha bisogno della luce del sole o della luna. La gloria di Dio, infatti, la illumina, e l'agnello ne è la lampada. e cammineranno le genti alla sua luce, e i re della terra a lei porteranno la loro gloria. Le sue porte non si chiuderanno di giorno, poiché non vi sarà più notte, e porteranno a lei la gloria e il fasto delle genti. Ma nulla di impuro in essa entrerà, né chiunque commette empietà e menzogna. Entrerà soltanto chi sta scritto nel libro della vita dell'agnello.